Questo lunedì 14 aprile, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così sugli 80 euro, no? Il bonus IRPEF a due velocità. Questo è il titolo di prima pagina. Poi c'è da dire che è la classica giornata in cui i giornali scelgono aperture diverse. Il Corriere della Sera, tra poco lo vedremo in apertura di lettura dei giornali. Sanità, truffe per 1 miliardo. C'è un rapporto della Guardia di Finanza, questa è la cifra delle truffe nel mondo della sanità, stimate forse al ribasso, 1 miliardo di euro. Repubblica, un'intervista al sottosegretario Delrio, parità di genere anche nelle nomine. Oggi il governo decide, le nomine per le società di Stato e la parità di genere ci sarà anche lì, assicura Delrio. Nomine, Renzi vuole più donne, oggi vertice finale per le scelte, anche questa è l'apertura della Stampa, mentre il Messaggero, nomine le scelte del governo. E anche il Secolo XIX, nomine la rivoluzione targata Renzi. I giovani non paghino per noi, questo è il titolo dell'Unità di apertura e l'intervista di Giorgio Napolitano, intervistato ieri da Fabio Fazio, mentre il Giornale sulle polemiche dopo la guerriglia di Roma, polizia stufa di prenderle, lo sfogo degli agenti, ora basta, magistrati in piazza con noi per arrestare i violenti. Dicevamo del rapporto sanità. Oggi sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini a pagina 2-3 racconta il miliardo di euro di danni, più di 700 funzionari infedeli, sta in queste due cifre il significato drammatico di un rapporto della Guardia di Finanza sulle truffe al sistema sanitario nazionale basato sui controlli del 2013, dunque dell'anno scorso, un trend che continua anche nei primi mesi di quest'anno e che ha potuto prospettare grazie a irregolarità di medici operatori spesso d'accordo con i pazienti e con le assicurazioni, ma anche con le società farmaceutiche, le aziende private. E quindi questa è una truffa generalizzata ai danni dello Stato. Il dossier è a pagina 2-3, truffe record e frodi alla sanità. E ce n'è di tutto, nel dossier dell'ufficio tutela e mercato delle fiamme gialle guidate dal colonnello Avitabile. Per esempio, i raggruppamenti omogenei di diagnosi servono a stabilire le tariffe per le prestazioni a carico del sistema sanitario. Truccandole e truccando i referti, si può prendere più soldi. Il caso più eclatante riguarda le operazioni di chirurgia estetica che vengono spacciate per interventi su gravi patologie, spesso addirittura tumorali. Le rinoplastiche fatte passare come settoplastica sono certamente frequenti, ma c'è anche chi si è rifatto il seno, coscia, addome sostenendo di essere molto malato, addirittura in pericolo di vita. Oppure un'indagine effettuata 2 anni fa in Lombardia dimostrò che a Milano un cittadino su 5 non pagava il ticket pur non avendo diritto all'esonero, dunque la truffa sul ticket. O ancora, il limite massimo stabilito dalla legge per la degenza è di 60 giorni, dopodiché scatta una tariffa più bassa per il rimborso. Ma girare l'ostacolo per ospedali e cliniche convenzionate è molto facile. Basta frazionare il ricovero e per il paziente a carico dello Stato la tariffa rimarrà sempre al massimo. Un sistema illecito, non facile da scoprire, provoca danni da milioni di euro. E poi macchinari e appalti truccati, insomma un dossier a pagina 2-3 del Corriere impressionante per dire come sulla sanità ci sia una truffa da 1 miliardo nel 2013. Queste sono le truffe che sono state scoperte, chissà quante poi rimangono non scoperte dalla Guardia di Finanza. Beh, qui non è questione di truffa, ma la vicenda che è su tutte le pagine dei giornali come cronaca sarebbe un clamoroso errore che si è verificato all'ospedale Pertini di Roma il 4 dicembre scorso, ne ha rivelato ieri contorni particolari per prima la Stampa, il possibile scambio di embrioni viene dato per accertato, cioè in una coppia che ricorsa al Pertini per la fecondazione in vitro, pare che ci sia stato un errore, nel senso che si sono presentati lo stesso giorno anche altre coppie, una delle quali aveva un cognome simile, e evidentemente quando è stata chiamata una con un cognome si è presentata, si è alzata la signora forse con l'altro cognome. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Quindi hanno impiantato a una donna un embrione fecondato di un'altra coppia, per cui adesso il Pertini dice effettivamente è così. Dal 4 dicembre, così scrive il Corriere, cognomi simili, scambiate le provette, a pagina 20, dal 4 dicembre scorso porta in grembo una coppia di gemelli non suoi. È una donna romana che si è sottoposta alla procreazione medicalmente assistita nell'ospedale Pertini a Roma, al centro di un clamoroso scambio di embrioni. Errore che potrebbe essere stato provocato dal cognome simile di due coppie. La stampa, tra l'altro, racconta con Paolo Festuccia, dopo aver tirato fuori il caso ieri, embrioni possibili scambi anche per altre coppie. Beh, ma allora in questo caso non sarebbe un errore di un cognome. Al Pertini forse l'errore avvenne nell'incubatrice. Il ministero ovviamente ha inviato gli ispettori. Scrive Paolo Festuccia, nel dossier del Sandro Pertini c'è una data, 4 dicembre, due orari, 8.30 e 10.30. In queste due ore, secondo le ipotesi del centro di fisiopatologia delle riproduzioni dell'ospedale, si sarebbe verificato lo scambio di provette degli embrioni tra le coppie, quattro coppie, che si sono sottoposte alla fecondazione assistita. Questa però è una delle ipotesi ottimistica, seppur analogamente drammatica, perché l'errore resterebbe circoscritto a due coppie su quattro. Fino a quando non si avranno riscontri scientifici certi, il timore è che l'errore possa riguardare anche altre coppie, oltre le quattro che quella mattina si sono sottoposte al trattamento sanitario. Tra l'altro la futura mamma, sotto shock, scrive la stampa, che cosa devo fare adesso? In realtà su altri giornali come Repubblica pagina 12, c'è un'intervista, alcune dichiarazioni di questa mamma, secondo l'articolo di Maria Novella De Luca e Carlo Picozza, che dice: quei figli non sono miei, ma ho deciso di tenerli. Racconta Repubblica, Anna diventerà madre. Lia invece il suo bambino l'ha perso. I nomi naturalmente non sono veri, ma lo strazio di questa partitura 4, Anna che porta l'embrione di Lia e Lia che porta l'embrione di Anna e dei loro mariti disperati, testimonia è purtroppo tutta vera. Ed è incredibile il brutto sogno di ogni genitore avvenuto in uno dei due più grandi ospedali romani. Anna racconta attraverso il suo avvocato Michele Ambrosini: questi bambini vivono dentro di me, li ho sentiti battere sul mio cuore, crescono, sono sani. Come posso decidere del destino di due creature così attese? Sì, ho avuto un momento di umano rigetto quando ho saputo che non erano miei, anzi nostri, che gli embrioni che avevo in grembo erano di un'altra donna, ma poi abbiamo deciso che la gravidanza doveva continuare. I nostri valori sono questi. Tra l'altro Repubblica porta a supporto anche un'intervista che Caterina Giusberti fa a una coppia di Modena, Marta e Luigi, anche in questo caso nomi di fantasia, 14 anni fa, successe a noi fecero nascere due gemelli di colore. Ora siamo tutti felici. Raccontano di una siringa pulita male e in pratica questa donna ricevette gli spermatozoi di una coppia proveniente dall'Africa del Nord. Ci è crollato il mondo addosso quando ce l'hanno detto, ma ora diciamo siamo una famiglia normalissima. Certo, quando abbiamo sentito questa notizia abbiamo pensato che continuano a fare pasticci e questo è un caso ancora peggiore del nostro, nessun legame genetico, ma vogliamo dire a questa coppia che non è così terribile come sembra? Avranno due bambini, si accertino solo che siano sani, poi faranno le loro valutazioni giuridiche. Ovviamente noi, quando sono nati i gemelli anche di colore di pelle mulatta, è stato difficile dirlo, viviamo in un piccolo paese, c'è molta ignoranza in giro, a volte la pazienza scappa. All'inizio pensavano tutti che io fossi stata con un altro, dice questa donna. E poi l'abbiamo raccontato anche ai nostri bambini, avevano 11 anni, abbiamo fatto vedere loro i ritagli dei giornali e loro hanno risposto: lo sapevamo benissimo, abbiamo capito tutto da soli. Va bene, questa storia è una vicenda davvero incredibile che da un errore porta a un dramma umano che sta vivendo certamente questa coppia. Trovate abbondante cronache sui giornali, mentre noi dopo la pubblicità ripartiremo dall'attualità politica, che oggi è tra le nomine da fare nelle società compartecipate dallo Stato e la cronaca abbastanza penosa della politica italiana, con gente che lascia i partiti, cose che interessano e infiammano i vostri dibattiti nelle colazioni delle case degli italiani, sono certo. È tipo Bonaiuti che lascia Forza Italia. Tra poco. Alessandro Milan, Er Pupone, per l'informazione. Grande Er Pupone, grande Totti. Speriamo vinca lo scudetto, ma non ce la faranno. Mannaggia, ci toccherà ancora la Juve, ma chissà quanto tempo. Vabbè. Allora, che dire, cari italiani, è il giorno delle nomine. Questo è il titolo per molti quotidiani di apertura: nomine all'ENI, nomine alle Ferrovie dello Stato, nomine alle Poste, nomine all'Enel, Terna, Finmeccanica, le grandi società compartecipate dallo Stato. Si tratta nella notte, questo racconta il Corriere della Sera, e oggi dovrebbe esserci appunto le nomine con scelte. Scelte di rottura, così almeno dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio in una lunga intervista, pagina 2-3 di Repubblica, intervistato da Goffredo De Marchis. Dice: siamo pronti alle nomine di Enel, Eni, Finmeccanica, i cui vertici scadono adesso. Renzi vuole fare anche le Poste per dare il segnale di un governo che affronta subito i nodi. Queste aziende producono utili, lavoro, fanno anche alcune politiche energetiche, sono tra le più importanti del paese, le scelte devono essere improntate a una vera e seria competenza. C'è il tema delle donne. Tutti i rumors raccontano che Matteo Renzi voglia implementare anche qui il numero delle donne ai vertici. Così risponde Del Rio. Il desiderio è quello di proporre volti nuovi, ma ciò che cerchiamo di fare non è la rottamazione generazionale, piuttosto è una rivoluzione culturale. Per questo sì, è vero che puntiamo a promuovere le donne fino ad arrivare a una sostanziale parità di genere nelle nomine. Lo facciamo per colmare un ritardo italiano almeno di 30 anni rispetto ad altri paesi, così come è successo con la scelta di 8 donne ministro. Una sostanziale parità farebbe avanzare l'Italia nella concretezza molto più di tanti proclami. Ecco, allora, insomma, che si scatenerà, immagino, già il dibattito sulla questione delle donne. È giusto metterle, è giusto scegliere i più competenti indipendentemente dal sesso, oppure è giusto andare a pescare nelle tante donne manager brave in grado di guidare queste aziende, ma insomma col rischio di farne una questione di bandiera. Tra l'altro Repubblica mette a pagina 3 questa girandola di nomine con i nomi. Allora, Francesco Descalzi, racconta Roberto Mania. Francesco Descalzi, classe 1956, dovrebbe andare amministratore delegato dell'ENI, su cui è seduto da quasi 10 anni Paolo Scaroni. Questo è il cambio della guardia più clamoroso, che dovrebbe essere ufficializzato oggi a borsa chiusa, dunque oggi pomeriggio, con la pubblicazione delle liste del tesoro per le assemblee delle società partecipate. Con Descalzi, che appare blindato all'ENI, crescono le possibilità che il numero uno delle ferrovie, Mauro Moretti, vada a guidare Finmeccanica, e al suo posto alle ferrovie dovrebbe andare Domenico Arcuri, ora amministratore delegato di Invitalia. Per l'Enel restano in campo 3 opzioni: Francesco Starace, attualmente amministratore delegato di Enel Green Power, Andrea Mangoni, amministratore delegato di Sorgenia, e Monica Mondardini, amministratore delegato di Cire del gruppo editoriale L'Espresso. La Mondardini è tra i candidati anche per guidare le Poste. Alle Poste in lizza anche Matteo Delfante, direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti. Beh, tra tutti quelli citati l'unica donna è appunto la Mondardini, e quindi, se tanto mi dà tanto il discorso di Del Rio, e cioè sulla questione anche della parità di genere, forse Monica Mondardini dovrebbe essere considerata in pole position rispetto agli altri nomi. Comunque tutti i dettagli li trovate a pagina 3. Eni, Enel, Poste, Renzi cambia i capitani dell'industria di Stato, così a pagina 8 del Messaggero. Andrea Bassi racconta, ogni giornale ha le sue indiscrezioni, ma anche sul Messaggero viene dato Moretti a Finmeccanica. Viene dato Francesco Caio alle Poste Italiane, per la verità è da qualche giorno. Francesco Starace in pole position all'Enel, Claudio Descalzi all'ENI e Aldo Chiarini a Terna. Questo secondo il Messaggero. Comunque, se siete interessati, nomine: Renzi alza le quote rosa, a pagina 11 della Stampa. C'è anche un'intervista a Lella Golfo, presidente della Fondazione Belisario, che dice: le manager capaci non bancano, basta cercarle bene. Questo per quel che riguarda la notizia delle nomine. Poi la politica. Beh, la politica è un piagnisteo, oggi è una cosa lacrimevole sui giornali, ve lo dico, paginate, una pagina e mezza alcuni, per la decisione di Paolo Bonaiuti, portavoce da sempre di Silvio Berlusconi, di lasciare Forza Italia e probabilmente il suo approdo il nuovo centrodestra di Alfano. Ecco, questo per dirti la notizia del giorno, caro ascoltatore. Bonaiuti lascia gli azzurri e scontro con nuovo centrodestra, l'allarme di Carfagna, una pagina sul Corriere della Sera. Il retroscena del personaggio, gestione, parole d'ordine non vanno e non potevo stare per uno strapuntino, così si sfoga Bonaiuti. E tra l'altro Bonaiuti viene intervistato dal Messaggero, è l'unico giornale che ha un'intervista proprio domanda e risposta con Marco Conti a pagina 2. C'è un problema di linea politica, dentro Forza Italia è sparita l'area riformista e moderata, lo dico io che sono un ex socialista. Sono andato da Berlusconi perché me lo ha chiesto lui, abbiamo parlato per ore, abbiamo rammentato i tanti momenti passati insieme, difficoltà ma ricordi belli. E poi mi sono svegliato la mattina, ci stavo riflettendo e poi mi sono svegliato con i titoli di giornali che dovrebbero essere vicini a noi, hanno fatto i titoli peggiori. Si riferisce a Libero che ha scritto di lei l'ultimo traditore, ma non solo. Poi ho letto le dichiarazioni di Romani che dice che io non ho mai espresso un'opinione politica, e poi Totti con quelle battute da scherzi a parte. Che dovevo fare di fronte a questi attacchi indegni e immotivati? Vabbè, comunque, dice, vado al nuovo centrodestra, non ho parlato ancora con Alfano, forse un nuovo ruolo da comunicatore, devo ancora parlarci. Va bene, Paolo Bonaiuti, alla domanda, tra l'altro, pare che gli abbiano offerto una poltrona nel CDA delle Poste per rimanere, risponde così Bonaiuti, io alle Poste, ma non so fare nemmeno una raccomandata. Ecco questo, Paolo Bonaiuti di Forza Italia lascia, Bonaiuti se ne va, Forza Italia trema, due pagine su Repubblica. Berlusconi invece è proprio contro Alfano, ce l'ha con Alfano. Secondo un retroscena del Messaggero, dice di Alfano si è fatto scappare sotto il naso la Shalabayeva e poi dice di avere catturato, tra virgolette, Dell'Utri, che è colui che lo ha portato per la prima volta da me insieme a Micciché. Una vera e propria vergogna, così Berlusconi dice di Dell'Utri. Ma di Dell'Utri parleremo tra poco, perché prima, a proposito di vergogne, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Eccoci Mauro. Buongiorno. Meglio a proposito di vergogne che a proposito di raccomandate, perché poteva prestarsi a dei giochi di parole, come dire, poco edificanti. Ecco. Vabbè. Perché io credo che la parola però di oggi, scusami, ma non solo di oggi, già da un po' di giorni, caro Alessandro, sì, sia incapiente. Tu hai capito esattamente cos'è un incapiente? Cosa significa essere incapiente? No, perché oddio, è una cosa abbastanza seria, vuol dire che avresti diritto a uno sconto, ma siccome guadagni troppo poco, lo sconto non te lo posso dare. Ah, fantastico. È un po' una situazione da trappola della povertà, come dicono gli economisti. Insomma, la sostanza però, perché te ne parlo? Perché oggi ci siamo messi a fare due conti su 24 ore e abbiamo trovato che ci sono più o meno 4 milioni che stanno lì, in questa area, attorno a questa area dell'incapienza, e ai quali vorremmo tanto capire come si fa a dare questo bonus dell'IRPEF, e per quello appunto presentiamo nella nostra terza pagina tutta una simulazione, perché poi sai, non è che tutti lavorano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per esempio, no? Le badanti, voi parlate delle badanti o di altre categorie, insomma. Sì, i collaboratori, quelli che hanno contratti magari solo per una certa parte dell'anno, insomma. Il giochino, per così dire, senza mancare di rispetto, naturalmente, il giochino dell'assegnazione del bonus non è così di semplice. Come lo soluzione. Prendo? Basta non darglielo. Vabbè, scusa. Ecco, no, questo vorremmo evitarlo, per quello. Questo è il senso. Perdonate la battuta, è lunedì. Forza, avanti. Poi, naturalmente, c'è la nostra guida, come tutti i lunedì. Questa volta parliamo di affitti. Tu dovresti essere interessato, guarda che sono cambiate un po' di cose dal 2014 sulle case in affitto, sia per gli inquilini sia per i proprietari. Stai mandando un messaggio da parte di mia moglie, che è in caccia di casa, no? Non perché vorrebbe non lo so, mi dice che devo trovarmi in affitto, non so. Non lo so, perché mi risultava che tu fossi interessato degli affitti, forse era per quello. Non ho idea, comunque non voglio entrare in queste cose private vostre, non voglio sapere nulla. Se poi non ti cacciano di casa e quindi non devi spendere i 2 euro, ci sono le pagine di risparmio e famiglia, questa volta come comprare i fondi online. Quindi, insomma, e questo certo. Ma i 2 euro potresti anche metterli in un ristorante. C'è un'inchiesta sui ristoranti che diventano società per azioni, alcuni vanno anche verso le quotazioni, quindi potrebbero essere un investimento produttivo, se non altro se magna. Caro incapiente. Caro incapiente, hai visto che è tornato il campionato? Ma vedi che basta un po' di fiducia, Mauro. Noi è quattro partite che abbiamo ripreso, voi il adesso numero, non calma. Il numero 4 ha sorriso anche a noi, sì, infatti, sì, ieri, sì, infatti. E ci siamo trovati... Devo dire bene al vicino lì al mare, una gita che è stata proficua. Bene così. Senti, noi dobbiamo parlare di dell'Utri, ma dopo il tuo momento. Ecco, dopo il traffico. Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione. Vabbè, la rima baciata la salviamo. Caro ascoltatore, allora dell'Utri è a Beirut, questo lo sapete se la voce mi assiste. E che succede? Che succede? Che domani intanto c'è il verdetto in Cassazione, ma sarà domani? Questo non si sa. Secondo Repubblica potrebbe esserci un rinvio del verdetto di Cassazione per la condanna associazione esterna alla mafia a 7 anni di carcere, perché c'è un avvocato di Berlusconi, scusate, di dell'Utri, che è ricoverato in ospedale. E quindi l'udienza in Cassazione domani dovrebbe, quella che domani dovrebbe decidere le sorti di Marcello dell'Utri, sembra destinata a saltare. Questo chiedono i difensori dell'ex senatore, che hanno già presentato istanza di rinvio, allegando la certificazione medica relativa al ricovero in ospedale dell'avvocato Massimo Krog, cassazionista che difende dell'Utri insieme al collega di Palermo Giuseppe Di Peri. E quindi intanto c'è questa ipotesi di rinvio della Cassazione, secondo Repubblica una strategia dilatoria della difesa in attesa di poter concordare le prossime mosse con dell'Utri, che è rinchiuso da sabato nella fortezza dei servizi di sicurezza di Beirut, oppure un casuale impedimento intervenuto proprio nelle ore in cui l'ex senatore veniva arrestato in Libano in un hotel a 5 stelle. Se verrà accordato, come sembra plausibile, il rinvio potrebbe certamente condizionare le decisioni di dell'Utri, che stamattina si ritroverà davanti al giudice di Beirut nell'udienza di convalida del fermo. Qui potrebbe spiegare e scrivere pubblica i motivi della sua presenza in Libano. Tramite l'avvocato Di Peri ha sempre detto non sono fuggito. È il giorno delle decisioni per il Corriere su dell'Utri, su questa anche tema dell'enigma dell'estradizione dal Libano. Ecco, su questa estradizione dal Libano c'è un giallo, perché nell'accordo firmato di estradizione tra Italia e Libano, che risale agli anni 70, non esiste l'accordo per l'estradizione per il reato di associazione esterna alla mafia, perché allora il reato non era riconosciuto, non esisteva, e allora il Libano firmò questa convenzione, per cui il risultato è che nella convenzione di estradizione tra Libano e Italia non esiste riconosciuto il reato di associazione esterna alla mafia. Questo potrebbe costituire un inghippo per l'estradizione? Per molti giornali sì. Vittorio Feltri sul Giornale in prima pagina scrive: quella che sto per scrivere non è una difesa tecnica di dell'Utri, le cui vicende sono note. Certo, però Feltri dice 20 anni per giudicare un uomo. Poi che ci fa a Beirut? Lui dice per motivi di salute, difficile credergli, sospetto che non abbia nessuna voglia di finire in galera, e mi sembra credibile. Ma come si fa a dar torto a dell'Utri se da 4 lustri vive nell'angoscia, sbatacchiato da un tribunale all'altro, con la prospettiva del gabbio? Sulla sua persona tira un'aria cattiva, che poi è la stessa aria fetida che si respira attorno a Forza Italia da quando Berlusconi è stato incastrato. E su dell'Utri, Vittorio Feltri, in questo articolo dal titolo "Rifugiarsi in Libano è stata la scelta giusta", Feltri scrive proprio questo: attenzione, io se dovessi scommettere, scommetterei che dell'Utri trascorrerà il resto della vita in Libano, proprio perché non esiste il riconoscimento del reato di estradizione, del reato di associazione esterna alla mafia nell'estradizione. e conclude Vittorio Feltri con un vero e proprio auspicio: caro amico siciliano, visto che sei nato a Palermo, ti auguro di morire a Beirut tra 100 anni. Così Vittorio Feltri. Secondo invece Berlusconi, ieri Berlusconi aveva detto ai suoi: l'ho mandato io in Libano per sostenere la campagna di Amin Gemayel, che è un politico libanese, su richiesta di Putin. Ieri Repubblica aveva dato questa notizia e Berlusconi non ha mai smentito. Va bene, veniamo alla questione della cronaca. La cronaca è sugli scontri avvenuti a Roma. Era un corteo per la richiesta della casa e anche contro i provvedimenti del governo Renzi sul piano casa, il Jobs Act, eccetera. È finita con le solite violenze. C'è sui giornali il caso della gente con il piede sulla ragazza, immagini prese da YouTube che sono finite in fotogrammi su tutti i giornali, cioè 4 contestatori arrestati, ma soprattutto c'è questa immagine di un agente che sembra proprio tiene con il piede l'addome di una ragazza e poi sembra proprio passargli sopra, racconta in maniera volontaria Rinaldo Frignani a pagina 22 del Corriere, con anche vicino un altro agente che sembra rimproverare il collega. La verità è che la polizia invece, come racconta il giornale, è stufa di prenderle, cito il titolo di prima pagina del giornale, tanto che il SAP, uno dei sindacati di polizia, pagina 2, dice ai magistrati: venite in piazza con noi per arrestare direttamente i violenti, perché altrimenti poi l'identificazione è difficile. Infatti, scrive il Messaggero, Roma caccia i vandali del corteo, indagine sul video della gente. Certo, la caccia non è facile. Va bene, cronaca, che dite di Angela Merkel? Io non lo so, noi italiani ci facciamo sempre un po' del male. Comunque tutti i giornali raccontano, addirittura il Quotidiano Nazionale l'ha messo in prima pagina: Angela Merkel è arrivata a Pompei, era a Ischia, deve andare a Ischia per il riposo, le ferie pasquali, si è presentata a Pompei, alla biglietteria con la scorta. Prego, 2 o 3 biglietti, siamo in 3, non so, in 4 o 5, ha pagato il biglietto. Allora, scandalo, i giornali italiani: guardate, è arrivata la Merkel e paga il biglietto. Il Messaggero: Merkel a Pompei paga i biglietti della scorta. Poi gli si avvicina, quando si è sparsa la notizia che c'era la Merkel, è arrivata la direttrice degli scavi, è arrivata tutta in fretta e furia, vuole essere accompagnata. No, grazie, faccio da sola, con una cartina è andata a Pompei. Una cosa normalissima in tutti i paesi del mondo. In Italia fa notizia, perché ovviamente figurarsi. Va bene, siamo al momento della premiazione dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo al momento della carta costa. Oggi vince Paolo Mastrolilli, che sulla Stampa dedica una pagina a un tema drammatico. Alla fine di un mito americano, i ragazzi non mettono più i jeans. E io quando l'ho letto ho detto: ma perché non li mettono più? È un dramma su cui la Stampa si concentra per una pagina intera. La carta costa. E noi andiamo al giornale radio.